stiamo per raccontarvi una grande attrice, un'attrice il cui volto è sicuramente impresso nella vostra memoria, e però ci sono una serie di particolarità sulle quali io insisterò nel corso della puntata. Intanto, le grandi attrici in genere sono bellissime o comunque piene di fascino, piene di personalità. Bene, qui invece stiamo per raccontare una storia completamente diversa. Addirittura lei, la nostra protagonista, conscia della sua differenza, insomma, rispetto allo stereotipo della grande attrice, disse di se stessa: cosa fai quando nelle tue vene scorre sangue malato, guasto senza speranze? Dice di se stessa: se in più hai la faccia con le guance appese come un cocker e in generale assomigli a un muffin, prendi la vita con fatalismo e diventi un'attrice. Quindi parleremo oggi di un percorso assolutamente in salita. Raccontiamo Margaret Rutherford, e forse ancora non vi dirà molto questo nome, è una delle più grandi attrici caratteriste inglesi. Lei è la mitica protagonista dei film di Miss Marple, il personaggio creato da Agatha Christie, che insieme a Poirot è diventato un personaggio icona, caro a tantissimi fan della grande giallista inglese. E lei, Margaret Rutherford, Miss Marple, l'ha incarnata alla perfezione, anzi, forse è riuscita addirittura a dare più spessore al personaggio della Christie, le ha dato quella nota di eccentricità che è farina del suo sacco sicuramente, e tutto questo è il risultato di una incredibile vita molto difficile, perché dietro a quel sorriso, dietro a quell'espressione di questa attrice si celava insomma un mistero molto più sanguinoso perfino dei film che lei ha interpretato. Dietro questa donna c'è il delitto, c'è la follia, c'è la depressione. Questi sono gli ingredienti della vita di Margaret Rutherford, alias Miss Marple. E ci hanno provato in tante poi a seguire le sue orme, c'è anche, non so, la mitica Angela Lansbury, che poi è diventata la signora in giallo, ma solo lei, solo Margaret Rutherford ha saputo dosare l'intelligenza e anche l'acume investigativo di Miss Marple con il senso della commedia, con quel gusto così inglese dello sberleffo. Peraltro lei, insomma, non ha fatto solo Miss Marple, perché nella sua lunga carriera, tardiva perché non parte certo da giovane, lei ha recitato più di 40 film, ha vinto anche un Oscar come miglior attrice non protagonista, è stata l'artista inglese più pagata dalla MGM negli anni 50, è stata uno dei 10 artisti top in quegli anni. Eh sì, perché la sua dote è stata quella di inventare un personaggio, un modo di recitare, ovviamente essendo appunto una caratterista, attore che non è certo dotato di bellezza, di fascino, in qualche modo ha dovuto fare di necessità virtù per riuscire a spiccare nonostante le apparenze. Il fatto è che se hai una faccia come la mia, devi imparare a viverci e a conviverci. In questo io credo di esserci riuscita, e alla fine la mia faccia è stata generosa con me. Margaret Rutherford Benn nasce l'11 maggio del 1892 a Londra. Il padre si chiama William Rutherford Benn, è un giornalista, un poeta che nel 1882 aveva sposato Florence Nicholson. Dopo il matrimonio il padre si fa già ricoverare in una clinica per malattie nervose. La diagnosi è depressione alternata con stati di insolita eccitazione e irritabilità. Poco dopo il padre, quindi il nonno di Margaret, il reverendo Julius Benn, lo fa uscire, lo porta in vacanza per fargli recuperare la salute. E qui si consuma un delitto molto più terribile di qualsiasi altro sperimentato da Miss Marple nella sua carriera. La quiete di una piccola pensione viene squarciata da urla terribili. Gli ospiti si precipitano in corridoio, i proprietari raggiungono la stanza da cui provengono le grida, e quando entrano nella stanza trovano William Benn con la camicia insanguinata in preda a una terribile eccitazione con gli occhi spalancati. Sta indicando la figura del padre che giace per terra con il cranio fracassato da un vaso da notte. L'evento ovviamente è drammatico, anche se per certi versi grottesco. La famiglia cancellerà ogni memoria di questo delitto. Pensate che Tony Benn, che era cugino di Margaret, diventò un noto politico laborista negli anni passati, questo Tony Benn verrà a sapere di questo delitto solo molti decenni più tardi. Era cugina di mio padre e suo padre si chiamava William Rutherford Benn, ma quando cercai nei documenti di famiglia non c'era alcun riferimento a William Rutherford Benn. Così chiesi a mia madre come mai, ma in quei momenti si metteva sulla difensiva e mi rispondeva sempre: beh, non ha mai fatto niente di cui vergognarsi. E io non capivo mai cosa intendesse. La cosa andò avanti per un bel pezzo, fino a quando, verso la fine degli anni 50, inizi anni 60, ero già membro del Parlamento, guardai negli archivi del Times e trovai il nome del nonno, il reverendo Julius Benn, e diceva: assassinato dal suo figlio pazzo. Assassinato dal figlio pazzo, ed è la pazzia che salva William, perché riesce a evitare l'impiccagione, viene riconosciuto pazzo, viene rinchiuso nel manicomio criminale di Broadmoor e rimarrà lì 7 lunghi anni. Quando esce, torna da Florence e insieme hanno una bambina, Margaret, e decidono di iniziare una nuova vita. Vanno via dall'Inghilterra, si trasferiscono a Madras nel sud dell'India e per un po' le cose sembrano andare bene. Florence rimane di nuovo incinta e poi però tutto precipita di nuovo. Questa volta è Florence a essere avvolta dalla depressione e un giorno la donna decide di farla finita. Nonostante aspetti un bambino, viene trovata impiccata al ramo di un albero del giardino di casa. William rimane con la piccola Margaret, che ha 3 anni, capisce che da solo non ce la può fare, sente di essere di nuovo vicino al baratro della follia, decide di tornare nell'unico posto dove si sente veramente al sicuro, cioè dietro alle sbarre del manicomio di Broadmoor, e lì si fa ricoverare volontariamente. Da quel manicomio non uscirà più fino alla morte, avvenuta nel 1921. Margaret viene affidata a una zia, Bessie Nicholson, che è la sorella di Florence. Le viene detto che entrambi i suoi genitori sono morti e insomma questa bambina parte in maniera tragica. Il suo padre, che ammazza suo nonno, diciamo, ammazza il padre, e la madre incinta che si è suicidata, quindi suicida e omicida, direi. Quindi questa è, come dire, l'imprinting della nostra protagonista. Rimane a vivere in una villetta Wimbledon, poco fuori Londra, fino a quando ha 30 anni. Vive con questa zia ruvida, la vera zitella inglese, affettuosa, solida, affidabile, anche perché la bambina non ha scelta, ha sperimentato dolore, instabilità. Per lei la zia Bessie sarà sempre la mia mamma adottiva e uno dei pochi santi presenti in terra, questo è quello che lei dice. Ero una bambina seria. Il mio viso era ovale come un uovo e avevo occhi verdi rotondi come una monetina. Arricciavo il naso come un coniglio, un'abitudine che conservo ancora oggi. Ero anche una bambina solitaria. È una bambina solitaria, Margaret, ma tutto sommato è una bambina come le altre. Va a scuola per signorine di Wimbledon, le piace partecipare a attività extra scolastiche, recitazione tra tutte, e qui inizia l'amore per il palcoscenico, e la zia le paga lezioni private per permetterle di continuare a studiare questa sua materia preferita, diciamo. Un giorno, lei ha 12 anni, suonano alla porta di casa, lei va a aprire, c'è uno sconosciuto che dice: le porto i saluti di suo padre. E la bambina replica che il papà è morto da tanto tempo. L'uomo insiste e dice: tuo padre è vivissimo, ti manda tutto il suo amore dall'ospedale psichiatrico. Ennesimo shock. Dopo aver vissuto anni senza sapere la verità, Margaret viene a conoscenza del fatto che il padre è pazzo, ha ucciso suo nonno, e viene a sapere anche che la madre si è suicidata. sfidata. Insomma, arrivano questi macigni che ovviamente le sconvolgono la vita. In qualche modo le viene, ne nasce anche il dubbio che hanno tutti quelli che hanno delle persone disturbate mentalmente in famiglia, il dubbio che anche nelle sue vene scorra, diciamo, del sangue compromesso. Da quel momento lei rimarrà sempre terrorizzata dalla possibilità di portare dentro di sé il germe della follia, cosa che confidava solo alle sue migliori amiche. I think the Credo che il suo terrore che suo padre uscisse dall'ospedale significasse che sarebbe uscito per andare a prenderla. Per questa ragione era anche terrorizzata di interpretare un personaggio descritto come pazzo. E credo sia stata anche la ragione per cui si è sposata molto tardi, perché pensava che sarebbe stato un male avere bambini. Ed è stato un peccato, perché era molto materna e avrebbe desiderato tanto un bambino. E infatti mi trattava un po' come se fossi stata una sua figlia maggiore. And she was intensely maternal and would have loved children. Il padre, come abbiamo già detto, muore nel 21 senza mai essere uscito dall'ospedale. Insomma, i due non si incontreranno mai. Però pare che questo cattivo sangue, come diceva lei, questa vena depressiva dei genitori, in qualche modo si era trasmessa a Margaret. Per tutta la vita lei ha avuto esaurimenti nervosi e, come il padre, ha trascorso lunghi periodi in cliniche specializzate. Probabilmente oggi sarebbe stata diagnosticata bipolare, sarebbe stata curata, ma ai tempi, insomma, il timore di essere considerata pazza l'aveva frenata, pazza figlia di pazzi, l'aveva frenata, ma dentro di sé, dentro di lei, l'aveva perseguitata per tutta la vita. E poi arriva la fine del liceo. Un giorno Margaret si guarda allo specchio, ci piace pensare che sia accaduto così, e lei vede riflessa questa prospettiva di un futuro lungo, solitario, da trascorrere tra la villetta di Wimbledon e le case dei suoi allievi, sì, perché lei comincia a insegnare pianoforte e dizione, insomma, prospettive noiose. Lei non ci sta, però muore la zia Bessie e le lascia quel tanto che basta per vivere dignitosamente. Insomma, lei decide che è arrivato il momento di cambiare il suo destino e non si rassegna a essere solo una zitella bruttina. Ha un sogno, vuole il suo colpo d'ala, lei vuole recitare. C'è una fiamma che arde dentro di lei, la passione per il palcoscenico e per i grandi ruoli romantici. E allora, perché non provare? Come avrei voluto essere una di quelle attrici della grande tradizione attoriale come la Berard o la Duse. Ci sono così tante parti che avrei voluto recitare. C'è sempre stata una punta di rimpianto rispetto al fatto di essere disegnata per interpretare personaggi un po' sbadati e perciò non aver avuto la possibilità di affrontare quei ruoli più drammatici che mi sarebbero tanto piaciuti. E con i soldi lasciati dalla zia, Margaret può finalmente pagarsi i corsi di recitazione all'Old Vic, che è un teatro con delle grandi tradizioni shakespeariane. Qui inizia la sua vera gavetta. Nel 1925 arriva la sua prima volta. Ha già 33 anni lei, e la prima volta è una parte di contorno in una commedia a teatro. Appare subito chiaro che la sua figura non le permette altri ruoli che quelli comici. Anche se poi dichiarerà: non ho mai avuto intenzione di recitare per divertire, mi ha sempre sorpreso il fatto che il pubblico mi considerasse divertente. Mi ricordo che un giorno in treno, mentre stavo andando all'Old Vic per le mie lezioni, sentii dentro di me che questa favola incredibile poteva diventare realtà. E mentre il giorno proseguì in tutta la sua gloria, raggiunsi l'Old Vic, dove scoprii che mi avevano preso per la parte di dama di compagnia di Edith Evans, insieme a molte altre bellissime ragazze, mentre io ero molto più vecchia, molto più brutta. E da allora, tutte le sere, mentre ero dietro a Edith Evans, affrontavo il pubblico, e questo stimolava molto il mio senso esibizionistico, perché era ormai chiaro che fossi molto esibizionista. Ma ormai ha messo un piede sulle assi del teatro e non intende più tornare indietro. Dal 1925 In avanti lei lavora senza sosta, sempre lo stesso genere di ruoli. Lei per tutta la sua vita si aspetta un grande ruolo romantico. Pensate che nel 31 si sta preparando in un importante teatro il Romeo e Giulietta di Shakespeare, importante spettacolo. Margaret fa di tutto per essere scritturata. Al momento dell'audizione il produttore aveva pensato che fosse venuta a fare il provino per interpretare la parte della nutrice, e lei invece con candore diceva che era lì per fare il provino, per proporsi per il ruolo di Giulietta. Pensate che all'epoca aveva già 39 anni e, come abbiamo intuito, non era certo una bellissima donna. Però proprio in questo periodo lei fa la conoscenza di un giovane attore a qualche anno meno di lei. Quel giorno lei annota nel suo diario: notai i suoi brillanti occhi blu, i suoi abiti eleganti, anche se informali, e il suo modo di fare educato. Non riuscivo a togliergli gli occhi di dosso, aveva qualcosa di speciale. Il suo nome era Stringer Davis. Ecco, ricordate questo nome, e anche complici probabilmente, diciamo, degli arretrati notevoli. Questo è l'incipit di una grande storia d'amore della quale parleremo più tardi. Nel 1933, quando lei ha 41 anni e molte attrici hanno già intrapreso da tempo la via del declino, Margaret Rafford riesce a conquistare il suo primo vero ruolo da protagonista. La tenacia di questa donna ha vinto contro tutte e contro tutti. Lo spettacolo si chiama Wild Justice. Da quel momento lei non si ferma più, e qualche anno dopo, con un grande attore dell'epoca, John Gielgud, lei recita in una commedia tratta da una pièce di Oscar Wilde, L'importanza di chiamarsi Ernesto. Interpreta la parte della governante Miss Prism. Nel 41 arriva la consacrazione definitiva. C'è una commedia che è stata quasi scritta pensando a lei da un grande commediografo, Noel Coward. Si chiama Spirito Allegro. La Radford interpreta una bizzarra medium che combina pasticci. È inutile dire che lei è strepitosa. Inizialmente aveva rifiutato il ruolo perché non voleva avere a che fare con spiriti e morti, che sono un po', insomma, il suo nervo scoperto, cioè la parte irrazionale dell'anima. Alla fine però il ruolo era così scritto bene, così divertente, che lei si convince a accettare. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando la particolarissima vita di Margaret Rutherford, nome peraltro che a voi probabilmente non dice nulla, almeno non diceva nulla prima che io iniziassi a parlarne, eppure stiamo parlando di una delle più grandi attrici inglesi del secolo scorso. Era una caratterista acuta, ironica, donna dai tempi comici incredibili, un'eccentrica, e il suo personaggio più famoso è qua. Tutti avrebbero detto: ah sì, adesso ho capito. Il suo personaggio più famoso è la Miss Marple di Agatha Christie, che diventa la sua Miss Marple. Io sono sicuro che la gente che la vedeva per strada in quegli anni diceva: guarda lì, c'è Miss Marple. C'era un'identificazione palese, insomma, tra le due donne. La scrittrice Agatha Christie probabilmente la pensava in un'altra maniera, ma l'interpretazione della Radford diventa veramente iconica. Alla fine perfino la scrittrice, che all'inizio non era convinta della scelta del regista, ha dovuto ammettere che lei aveva migliorato il personaggio letterario, e di certo la Rutherford Miss Marple deve averla amata veramente tanto. Considero Miss Marple una donna estremamente capace di avere la meglio in ogni situazione. È uno dei personaggi migliori creati da Agatha Christie. L'ammiro molto e sono onorata di interpretarla. Non è interessata al crimine in se stesso e non è una sorta di vendicatore. Crede nella santità della vita umana. Appartiene alle forze della luce contro le forze dell'oscurità, e con questo spirito cerca di illuminare i cupi misteri nei quali va a trovarsi. Lei sta dalla parte della verità. Ecco perché è un personaggio così importante. E nei panni di Miss Marple, la Rutherford recita in 4 film che hanno tutti un grande successo in Gran Bretagna ma anche all'estero. Grazie a questo ruolo si costruisce una fama internazionale. Film come Assassino sul treno e Assassino al galoppatoio diventano dei classici, anche perché le sceneggiature sono sempre molto inglesi, molto divertenti. Le battute finali, per esempio, di Assassino al galoppatoio tra Miss Marple e il bizzarro Mr. Enderby, che l'ha appena chiesto di sposarlo, le battute finali, insomma, sono molto gustose. Non sta per caso proponendomi di sposarla, signor Enderby? Esatto, le propongo di tenere la sua sella qui in permanenza. Questo qui è il suo posto. Sono estremamente lusingata, signore. Beh? Ma devo risponderle di no. No? Vede, ho infiniti altri interessi con cui occupare il mio tempo. Uno, anzi, è molto urgente. La nuova recita della parrocchia, un bel dramma, già lo sa, spero che interverrà. Non sono cose di mio gusto. Oh, che peccato. Beh, addio. Addio. Miss Marple? Sì? Lo riterrei un onore se restasse almeno oggi come mia ospite alla caccia. Molto dolente, signor Enderby, ma disapprovo gli sport sanguinari. Mi sono salvato per un pelo. Invece c'è una domanda di matrimonio alla quale lei risponde sì. È quella che le fa Stringer Davis nel 45, dopo 15 anni di fidanzamento. Pare che le ragioni di questa attesa fossero per colpa della madre di Stringer, la signora Ethel, che finché è stata in vita si è opposta con tutte le sue forze al matrimonio del figlio con questa donna più grande di lui. Non bella, direi brutta, insomma, poco affascinata e sgraziata. Le madri sono sempre iperprotettive nei confronti dei loro figli, soprattutto se sono figli unici, vorrebbero il meglio per loro. Questa Ethel pretendeva obbedienza assoluta dal figlio e Stringer, che probabilmente insomma un po' mammone era, aveva rinunciato a chiedere in sposa la sua Margaret. Poi la madre chiude gli occhi una volta per sempre e da lì, insomma, per Stringer parte un'altra vita. Insomma, un matrimonio direi quantomeno particolare e peraltro, come tutte le cose strane, ci sono anche dei mormorii. Si dice che Stringer non sia, come dire, particolarmente attivo sessualmente. Gli inglesi parlano di quei matrimoni come lavender marriage, termine che vuol dire matrimonio di convenienza, quando magari uno dei due partner ha un comportamento, un orientamento sessuale non accettato dall'epoca, e quello di Oscar Wilde, per esempio, era un lavender marriage. Insomma, Stringer forse è un po' quantomeno bisessuale, ma non ci interessa. Insomma, per alcuni biografi, insomma, l'unione non è mai stata neanche consumata fisicamente. È un'unione, comunque, diciamo, chiudiamola così, non è un'unione improntata su una vita sessuale scatenata, però il loro fu comunque un matrimonio d'amore, un'unione piena di affetto, di sostegno reciproco. Secondo gli amici lui la adorava, la considerava piena di talento, arrivava al punto di definirla una vera bellezza. Peraltro Margaret faceva aggiungere sempre una clausola nei suoi contratti, clausola che prevedeva una piccola parte per Stringer in modo da poterlo avere sempre vicino. Ascoltate questa intervista nella quale si sfiora la commozione. Sono stato un attore non protagonista, un supporting actor, tutta la mia vita, sin dagli anni 20. E non vedo perché non dovrei supportare una star sia in scena che fuori dalla scena. Da parte mia vorrei dire che senza questo particolare sostegno non avrei potuto fare quello che ho fatto. Dunque per me averlo al mio fianco è una condizio sine qua non. Stringer rimase vicino alla moglie per tutta la vita, anche nelle occasioni in cui Margaret si faceva prendere da delle infatuazioni improvvise per uomini anche non degni di stima. Sì, perché lei aveva insomma un'anima adolescente di fondo. Lei aveva sempre sognato di poter interpretare Giulietta e palpitare d'amore per Romeo dal suo balcone. Insomma, a volte ricorreva anche in incidenti un po' imbarazzanti, si innamorava di giovani che ovviamente non ricambiavano i suoi sentimenti. Per esempio, c'è un episodio sintomatico e anche un po' sconvolgente. Dopo 8 anni di matrimonio, nel 53, lei conosce un pianista, si chiama Malcolm Troup, ha 30 anni meno di lei. Avevano costruito i due una sincera amicizia e anche una corrispondenza intensa, e poi un giorno lei in qualche modo cambia atteggiamento, scrive a Troup una lettera e gli propone di scappare assieme. Insomma, lui si rende conto che lei si è innamorata di lui, lo sta un po' quasi stalkerizzando e ovviamente scappa, si allontana. Insomma, se ti fa il filo una donna che ha 30 anni più di te, che non è neanche una bellezza, non puoi far altro che scappare. E l'anziana attrice rimane in uno stato di prostrazione, si fa ricoverare in clinica esattamente come il padre aveva fatto tanto tempo prima. Rimane 6 mesi in clinica vittima di un esaurimento nervoso e Stringer è sempre lì che la accudisce amorevolmente. Questo episodio, di fatto, insomma, invece che distruggere il loro matrimonio, li unisce ancora di più. Non è il primo ricovero di Margaret, però questo è un momento serio. Lei ha sempre avuto a che fare con gli alti e bassi, parlava sempre dei suoi problemi mentali come problemi di salute occasionali. Forse lei pensava che il fatto di dover interpretare ruoli eccentrici diventasse poi causa dei suoi disturbi di personalità, e in realtà forse è che proprio i ruoli così eccentrici erano il frutto della sua instabilità mentale. Non mi dà fastidio che mi credano un'eccentrica, perché mi piace essere una donna con pensieri originali, con modi un po' originali. Non arrivo a dire caratteristici, ma sì, forse un po' stravaganti. E non mi dispiace. Però, come spesso accade, una persona così disturbata viene salvata dal lavoro, prima in teatro, poi l'abbiamo detto con Miss Marple, e poi nel 1963 arriva addirittura all'Oscar, miglior attrice non protagonista, nel film International Hotel con Elizabeth Taylor e Richard Burton. Lei interpreta una svagata duchessa di Brighton costretta ad andare in America per trovare dei soldi per salvare il suo castello. Trovo che girare film sia molto più riposante del teatro. Una volta che si è in uno studio cinematografico, il resto del mondo rimane fuori e ci si può concentrare in pace. Mentre la vita a casa, lontana dal lavoro, è quella più faticosa. Sempre a che fare con ogni genere di piccoli problemi domestici che escono fuori inaspettatamente. Negli studi cinematografici, invece, si finisce per seguire sempre il solito schema, il che, a mio modo di vedere, è bello e riposante. Margaret e Stringer hanno questa casa frequentata da vari personaggi che magari sono in cerca solo di aiuto, aiuto che lei dà senza problemi, e diciamo che la relazione, il rapporto che i due hanno con i soldi è quantomeno distratto, forse addirittura infantile. Sì, loro hanno qualcosa di infantile o di innocente nel loro cuore. Insomma, stiamo parlando di una donna che dormiva circondata da animali di peluche e che poi aveva chiesto espressamente che i suoi peluche fossero seppelliti con lei al momento della sua morte. Forse però è proprio questa innocenza che fa di lei un personaggio speciale. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Negli anni 60 Margaret Rutherford diventa per gli inglesi una specie di monumento nazionale. Lei è veramente, incarna, è la consacrazione del più puro spirito anglosassone, mix di humor, di pragmatismo, di cinismo, di dignitoso distacco dagli eccessi emotivi, il tutto però è condito, insomma, dalla sua eccentricità. Lei è un'attrice come poche altre, e il più grande critico teatrale dell'epoca, che si chiamava Kenneth Tynan, un giorno scrisse una recensione in cui dichiarava: la cosa unica di Margaret Rutherford è che può recitare anche solo con il mento. E tra i molti stati d'animo che riesce a interpretare, lui diceva: apprezzo il mento autoritario, il mento dubbioso, il mento che tiene a bada. Diciamo che lei, che ironizza anche su questo, in maniera più prosaica dice che i suoi 5 doppi menti avevano molto a che fare con la sua bravura, insieme alle sue molte rughe, autoironica fino in fondo. Il cugino Tony Bell si spinge oltre nel giudicare la sua recitazione. Aveva la capacità di entrare dentro il personaggio, fissandolo dentro se stessa, tanto da renderlo davvero reale. Così, quando penso a Margaret, penso anche alle parti che ha interpretato, perché c'è qualcosa di molto autentico in tutta la sua recitazione. Da una parte mostra se stessa, e dall'altra interpreta una parte in maniera brillante. E verso la fine degli anni 50 la Rutherford conosce un giovane scrittore piuttosto bizzarro. Forse tutto questo avviene proprio per la sua capacità di comprendere la profondità di personaggi particolari. Questo scrittore si chiama Gordon Langley, comincia a frequentare assiduamente la sua casa, e il ragazzo sostiene, insomma, di avere una vita complicatissima, racconta un sacco di storie, è stato missionario tra gli indiani del Canada, soprattutto però racconta di essere nato donna, ma con un clitoride così sviluppato da essere stato scambiato per uomo. Insomma, un personaggio, diciamo, degno veramente di una commedia di Oscar Wilde. E forse hanno pensato questo Margaret e Stringer, che si innamorano a loro modo di Gordon, decidono di adottarlo. Qualche anno dopo, nel 1967, a questa strana coppia di coniugi arriva una serie di notizie. Intanto Gordon, che adesso si fa chiamare Don Langley Simmons, dice di avere ricambiato sesso, insomma, comunque di avere sistemato le sue vicende ormonali così particolari. Quindi ne parliamo al femminile: si è sposata con un giovane meccanico di colore di fede battista. Peraltro, essendo il tutto avvenuto in America, nella Carolina del Sud, la cosa non è molto piaciuta ai compaesani, e una bomba incendiaria è stata lanciata nella chiesa. Quando arriva la notizia della cerimonia in Inghilterra, Margaret la commenta così: gli ultimi anni di Margaret Rutherford incarnano, insomma, i suoi incubi e le sue aspettative peggiori, perché dopo la depressione, dopo gli esaurimenti nervosi, che peraltro lei risolveva ricorrendo all'elettroshock, arriva la malattia mentale più terribile della seconda parte delle vite, e si ammala di Alzheimer. Piano piano, insomma, si appanna la sua grande comicità, la sua attenzione è più remota, cominciano a sparire i ricordi. Al suo fianco c'è sempre Stringer, che la cura fino a quando si spegne nel 72, pochi giorni dopo aver compiuto gli 80 anni. Al suo funerale sono presenti tutti i grandi nomi del teatro, del cinema inglese, tutti, perché peraltro qualcuno sottolinea durante la cerimonia che Margaret non ha mai detto niente di cattivo su nessuno. A testimonianza della grandezza comunque di questo particolare amore, magari non fisico ma sicuramente spirituale, Stringer la raggiunge un anno dopo, a 74 anni. Rimane devoto anche nella morte a quello che comunque è stato il grande amore della sua vita. Grandi colpi d'ala da parte della nostra protagonista, che riesce a raggiungere un successo difficile per la sua non bellezza e anche per i suoi disturbi mentali. Riesce a raggiungerlo in un'età nella quale spesso le attrici sono già in declino. Insomma, colpi d'ala che ci piacciono. E se volete mandare dei commenti, sapete dove trovarmi. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Figliasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.